Mango Tart legge Manacled di Sen Lin Yu. Capitolo 18. Hermione fissò il quadrato di carta che teneva in mano, sconcertata. Aggrottò le sopracciglia mentre lo piegava a metà e poi si fermò, sentendosi persa. Non riusciva a ricordare come fare la gru. Ne aveva fatte più di 1000. Grandi e piccole, giorno dopo giorno. Aveva ricordi distinti di quando li piegava, ma in qualche modo non riusciva più a ricordare come fare. Aveva continuato a provarci ogni mattina dopo aver letto il giornale, ma in qualche modo non riusciva più a capire come. Non riusciva a ricordare l'ordine delle pieghe. C'era prima quella diagonale. Forse doveva piegarlo a metà e poi di nuovo. Provò in entrambi i modi. Non riusciva. Quella conoscenza era sparita. Non aveva nessuna delle sue gru fatte prima da esaminare per invertire il processo. Gli elfi le buttavano sempre tutte entro la fine della giornata. Sospirò tra sé e sé e mise da parte il foglio. Doveva aver perso quel ricordo durante la sua crisi. Forse aveva subito un danno cerebrale. Il ricordo, la conoscenza, era svanito da dove l'aveva conservato, come se non fosse mai esistito. Solo che lei sapeva che era successo. Ricordava distintamente di essere stata in grado di farli. Non importava, non sapeva nemmeno perché lo facesse. Non riusciva a ricordare quando l'aveva imparato. Forse alle elementari. Si mise il mantello e si diresse fuori. La tenuta era tetra e fangosa. L'inverno stava dando i suoi ultimi sussulti prima della primavera. Le finestre si tingevano occasionalmente di brina al mattino, ma le giornate si scaldavano e pioveva catinelle per giorni interi. La pioggia scendeva solo leggermente, così Hermione si avventurò fuori. Era arrivata al punto di poter attraversare la maggior parte dei giardini che circondavano il Manor, purché non fossero troppo aperti. Non riusciva ancora a gestirli del tutto. Quando di tanto in tanto cercava di forzare se stessa oltre le siepi e verso le colline aperte, era come se qualcuno la stesse sezionando, affettando i suoi nervi via dal corpo e stendendoli al freddo e al vento. La mente le si ripiegava su se stessa e la lasciava sola, in uno stato di puro terrore. Non poteva farcela. Si chiedeva se prima o poi sarebbe mai stata in grado di gestirlo, se si sarebbe mai ripresa dall'agorafobia. Era come se si fosse radicata profondamente, attorcigliandosi dentro e attraverso di lei, dal cervello e giù per la gola, nei polmoni e gli organi, come una vite, attendendo di strangolarla a morte. Nei giorni in cui non pioveva di rotto, passava la maggior parte del tempo a vagare per la tenuta. Tornava in casa incrostata di fango e non aveva altra scelta se non quella di trascinarlo all'interno e attraverso i corridoi. Le case magiche non avevano tappetini per le porte o raschietti per gli stivali. Mormorava scuse tra sé e sé agli elfi domestici ogni giorno. Era sprofondata in una sorta di temuta monotonia. Si svegliava e faceva colazione, leggeva il giornale più volte, piegava la carta, pranzava. Quando non pioveva di rotto, usciva ad esplorare la proprietà per ore e ore. Se la pioggia era troppo forte, usciva solo brevemente e poi si esercitava nella sua stanza finché non era pronta a crollare. Faceva la doccia, esplorava il Manor, cenava. A volte Malfoy arrivava e usava la legimanzia, a volte arrivava e la scopava con indifferenza sopra un tavolo, andava a letto, si svegliava e ripeteva la routine. Giorno dopo giorno non c'era niente di nuovo, non parlava con nessuno tranne che con Malfoy e la Stroud. Sapere che il programma di ripopolazione era tutto uno stratagemma non cambiava nulla. Sapere che Voldemort stava morendo, che aveva gli Horcrux, non cambiava nulla. Non per lei. Malfoy passava ancora tutto il suo tempo a cercare di dare la caccia a chiunque avesse distrutto il medaglione. quando aveva ispezionato i suoi ricordi, aveva l'aria visibilmente abbattuta. Aveva esplorato la sua mente solo brevemente, come se avesse paura di danneggiarla e causare un altro attacco. Cominciava a sospettare che Voldemort lo cruciasse regolarmente, ogni volta che lui gli riferiva che non aveva ancora preso il colpevole. Non era, si rese conto, pallido per la rabbia. Era pallido per lo shock fisico causato dalla tortura. In effetti sembrava che venisse torturato ogni giorno. I sintomi si manifestavano più distintamente ogni volta che lo vedeva. Sembrava eroso, come se fosse sull'orlo di un esaurimento. Era quello l'effetto della Cruciatus. Se usata troppo frequentemente, anche se non faceva impazzire una persona, poteva dare effetti a lungo termine. Le mani gli tremavano come a volte facevano quelle di Hermione. Si chiese se stesse facendo terapia per la tortura, se ne avesse avuto il tempo. Sicuramente sì, l'aveva fatta curare dopo il suo attacco. Probabilmente avrebbe usato lo stesso guaritore. Doveva averne uno. Era possibile che aveva messo un guaritore al proprio servizio durante la guerra. Non era il tipo da andare a sedersi nella sala d'attesa del San Mungo. Cercò di non notare i sintomi, il pallore, gli spasmi occasionali delle dita, la dilatazione delle pupille. Ricordò a se stessa che lui stava cercando di dare la caccia all'ultimo dell'ordine. Ogni volta che tornava torturato era un segno che aveva fallito e l'ordine era sopravvissuto. Ma le dava fastidio, come guaritrice, il deterioramento. Non riusciva a smettere di notarlo. E le erodeva inspiegabilmente la coscienza. Lo ignorò. Voldemort stava morendo. Voldemort stava morendo e Malfoy lo sapeva. E aveva risposto scalando i ranghi e spazzando via l'ordine. Si era chiesta perché fosse così servilmente obbediente anche di fronte al fatto di avere lei come madre dei suoi futuri figli. Ora sapeva perché. Certo che sarebbe stato disposto a fare qualsiasi cosa per rimanere nelle grazie di Voldemort. Ron aveva avuto ragione. Malfoy probabilmente si considerava il successore. Come avrebbe potuto non farlo? Lyriv, la mano della morte del Signore Oscuro. Quando Voldemort sarebbe finalmente svanito, chi avrebbe osato contestare che Malfoy fosse il prossimo nella linea di successione? Non c'era nessun altro mangiamorte che potesse reggere il confronto. Era chiaramente intenzionato a diventare il prossimo Signore Oscuro e, a meno che Voldemort non lo uccidesse prima, Hermione si aspettava che lo facesse. Si chiese che tipo di Signore Oscuro sarebbe stato Malfoy. Che cosa voleva lui? Ancora non lo sapeva. Forse non l'avrebbe mai saputo. Se lo sarebbe sempre chiesto e non l'avrebbe mai capito. «Merita di morire», pensò tra sé e sé. «Merita di essere cruciato. Il mondo sarebbe un posto migliore se Draco Malfoy fosse stato ucciso o fatto impazzire». Ma il pensiero di lui con gli occhi sbiancati la infastidiva in qualche modo. Guardare passivamente il pedaggio che la regolare tortura si stava prendendo su di lui la faceva sentire stranamente colpevole. «Non poteva farci niente», ricordò freddamente a se stessa mentre attraversava il labirinto di siepi, anche se voleva aiutarlo, cosa che non voleva fare. Lui era un mangiamorte. Non che qualcuno l'avesse costretto a diventare un mangiamorte o ad assassinare Silente o ad essere colui che aveva fatto fuori l'intero ordine della Fenice e una grande percentuale della resistenza nel suo complesso. Meritava ogni briciola di sofferenza che andava di pari passo con la sua servitù, e ancora di più. Se non fosse stata lei ad ucciderlo, l'ironia che fosse Voldemort a compiere lentamente l'atto sarebbe stata sia appropriata che soddisfacente da contemplare. Per lo più. Hermione sospirò e smise di camminare, premendosi i palmi delle mani contro gli occhi, cercando di schiarirsi la mente e smettere di pensare. Sembrava che fosse riuscita a conservare un po' di cuore tenero, anche per i mostri più depravati. aveva sempre odiato la sola idea della tortura. Le aveva dato fastidio assistere a quella della Umbridge. A quanto pareva, non riusciva a godersi nemmeno quella di Malfoy. Il successivo periodo fertile fu reso decisamente peggiore dalla pozione. Man mano che si avvicinava, i seni le si gonfiarono di diverse misure e senza un reggiseno a sostenerli si trovarono a pendere e dolere, essere palpitanti e sensibili. Il suo basso ventre si gonfiò in un modo che la fece sembrare effettivamente nelle prime fasi della gravidanza. Era orribile. Si trovò improvvisamente a confrontarsi in modo vivido, viscerale, con l'idea della gravidanza, in un modo che era riuscita ad ignorare ed evitare fino ad allora. Piangeva. I vestiti non le stavano bene. Non poteva fare esercizio. Era troppo doloroso. Si sentiva estremamente stanca e nervosa. Si rannicchiava nella sua stanza e cercava di ignorare tutte le cose che il suo corpo stava subendo. Quando il tavolo apparve, trovò un po' doloroso sporgervisi sopra e sentire il peso premere sul suo petto. Deglutì con forza. Tutto il corpo era ipersensibile, in particolare in posti a cui non voleva assolutamente pensare. Quando sentì la porta aprirsi, si concentrò intensamente sul dolore, premendo sui seni più forte del necessario e costringendosi a non prestare attenzione a nient'altro. «Per favore, non rimanere incinta. Ti prego, non rimanere incinta», supplicava. Dopo 5 giorni, quando Malfoy apparve per ispezionare i suoi ricordi, sembrava leggermente meno nervoso, non così mortalmente pallido, meno torturato. Temeva che significasse che aveva fatto qualche passo avanti con la sua indagine. Esaminò attentamente i suoi ricordi, più accuratamente della volta precedente, ma ancora senza disturbare nessuno dei ricordi bloccati. Guardò ripetutamente la conversazione di Hermione con Ron, come per controllare i dettagli. Quando si imbatté nella sua riluttante preoccupazione per le sue torture, si ritirò dalla sua mente. «Ti preoccupi per me, sangue sporco?» disse con un ghigno. «Devo ammettere che non avrei mai pensato di vedere quel giorno». «Non prenderlo come un complimento», rispose Hermione rigidamente. «Mi è dispiaciuto anche per la Umbridge quando è stata torturata, ma ballerei volentieri sulla sua tomba». Lui arricciò la bocca divertito. «Purtroppo i serpenti l'hanno mangiata». Hermione si ritrovò a sorridere prima di riuscire a fermarsi. Malfoy emise una risata abbagliante. «Sei una stronza», disse con una lieve scossa della testa. Il sorriso di Hermione svanì. «Alcune persone meritano di morire», disse freddamente. «E quelli che non lo meritavano, li hai uccisi lo stesso». Lui alzò gli occhi come se avesse semplicemente criticato le sue maniere. «Ho fatto quello che mi è stato ordinato di fare», disse con un'alzata di spalle. «Te lo dici per alleggerirti la coscienza?» Lei sogghignò mentre si sedeva sul letto. «Quando li hai impiccati e li hai lasciati ammarcire, pensavi di essere nobile?» Lui le fece un sorriso sottile e aggrottò un sopracciglio. «La vostra resistenza aveva una speranza troppo sconfinata, anche dopo che Potter era morto davanti a loro. Erano tipi che non avrebbero mai creduto alle notizie basate sulle dicerie. Quanti altri combattenti credi che avrebbero tentato la fuga se non avessero visto i corpi marcire con i loro occhi? Sicuramente non credete nell'incoraggiare l'ottimismo suicida». «Qualcuno è ancora là fuori», disse. «Qualcuno che non avete catturato». Lui sorrise debolmente. «Non per molto». Hermione sentì il sangue defluire dal viso in modo così netto che le sembrò che qualcuno le scavasse in testa. «Ai!» le tremava la voce. «Non ancora, ma posso praticamente garantirlo», disse con un sorriso crudele. «Molto prima che il signor oscuro svanisca, il vostro ultimo membro dell'ordine sarà morto e la vostra preziosa piccola resistenza non sarà mai neanche esistita». «Non puoi saperlo», disse Hermione ferocemente. «Lo so. disse. La sua espressione divenne così dura che avrebbe potuto essere scolpita nel marmo. «Questa è una storia con un solo finale. Se il vostro ordine ne voleva uno diverso, avrebbe dovuto prendere decisioni diverse. Forse alcune dure e realistiche. Avrebbero dovuto lasciar perdere le loro nozioni fiabesche per cui potevano in qualche modo vincere una guerra senza mai sporcarsi le mani. Erano idioti. Quasi tutti». Lui sogghignò verso di lei. «Hai idea di quanto sia facile uccidere qualcuno quando sai che spera solo di schiantarti?» «Molto facile. Così facile che potrei farlo ad occhi chiusi, a questo punto». Hermione lo fissò, guardando il modo in cui la sua bocca si contorceva nella derisione e la furia nei suoi occhi mentre parlava. «Chi odi così tanto?» chiese lei. Non riusciva ancora a capirlo. Sembrava sfidare i limiti della magia. «Molte, molte persone», disse lui con un'alzata di spalle insolente. Poi sorrise. «La maggior parte delle quali sono morte, ora». Se ne andò prima che lei potesse chiedergli altro. Dopo quasi un mese, Montague ricominciò a visitare il Manor. Hermione non si preoccupò di spiarlo. Aveva concluso che probabilmente non era un membro della Resistenza o dell'Ordine. Se ce ne fosse stata qualche possibilità, Voldemort avrebbe sicuramente mandato Malfoy a cercarlo. Quando un giorno tornò dalla sua passeggiata, trovò una mezza dozzina di elfi domestici sulla veranda dell'ala nord che preparavano una grande tavola e disponevano ovunque una grande quantità di fiori. Uno di loro sparì immediatamente con uno schiocco secco e un attimo dopo Topsy apparve e si avvicinò a Hermione. «La padrona darà una festa questa sera. La sangue sporco deve rimanere fuori dalla visuale», disse Topsy. Hermione sbatté le palpebre e diede un'occhiata alla veranda, che sembrava più preparata per un banchetto di nozze che per la celebrazione dell'equinozio di primavera. «Va bene», disse, e andò a cercare un'altra entrata al Manor. Osservò i preparativi dalle finestre del piano superiore e concluse che l'equinozio era solo una scusa per Astoria per dare una festa. Non c'era nulla dei rituali o delle tradizioni evidenti, a parte l'abbondanza di fiori. Al calar della sera la veranda era incantevole, illuminata da luci di fata infilate negli enormi bouquet di narcisi e tulipani. Astoria doveva esserseli fatta spedire da qualche altra parte, teorizzò Hermione, dato che la tenuta dei Malfoy era ancora fredda e accennava appena alla primavera. Guardò gli ospiti arrivare. Mangiamorte. Tutti. Erano rigidi e formali l'uno con l'altro fino a quando le bevande non iniziarono a scorrere generosamente. Quando tutti furono seduti e il pasto avviato, Hermione fece un passo indietro dalla finestra da cui stava guardando e prese il mantello. Scivolò lungo un corridoio silenzioso e uscì nei giardini. Poteva sentire le voci della festa oltre le siepi. Se fosse riuscita a trovare una buona posizione, avrebbe potuto origliare. Forse qualcuno le avrebbe dato informazioni utili sull'ordine o sulla resistenza, o sulle altre surrogate. Il profeta era sempre pieno di speculazioni, ma era difficile sapere cosa potesse essere vero. Seguì i sentieri tortuosi del labirinto di siepi. I suoi passi non facevano rumore. Non le era stato detto di non uscire. Cercare di origliare quella che stava chiaramente diventando una cena di ubriachi fu un sollievo. Si sentiva viva, piuttosto che una creatura meccanica morta che passava giorno dopo giorno piegando origami, facendo esercizio e aspettando che un tavolo apparisse in mezzo alla stanza per essere scopata clinicamente e poi lasciata ancora una volta per un altro ciclo. La veranda era proprio dall'altra parte della siepe rispetto a lei. Poteva sentire chiaramente le voci. «A malapena le dita», disse una voce. «Non si può prendere una cosa del genere. Mi fa venire i brividi, cazzo. All'inizio riuscivo a malapena a farmelo alzare per prenderla, ma ora che è incinta ha un paio di tette incredibili. Sicuramente compensa la mancanza di dita». Hermione si bloccò. Stavano parlando delle altre ragazze, forse Calì o Angelina. Entrambe avevano perso la maggior parte delle dita. Alcune erano incinte. Almeno la tua ha entrambi gli occhi, disse un'altra voce. La mia è un dannato orrore da guardare. La prendo da dietro o le faccio cadere qualcosa sulla faccia per non dover fissare quel cazzo di buco nella testa. Ho un cerotto che lo copre ora, ma ancora... Anna Abbott. Non sono fatte per essere guardate. Le interruppe la voce tagliente di Astoria. Risate fragorose, ubriache. Dovresti vedere come ho addestrato la mia. Si intromise un'altra voce. Tutto quello che devo fare è schioccare le dita e lei si piega. La sua fica è così larga che preferisco prenderla nel culo, a meno che non sia uno dei giorni obbligatori. Deve essere stata una puttana a Hogwarts, ma sa come succhiarmelo. La tengo sotto il tavolo ogni mattina mentre faccio colazione. Fu come se qualcuno l'avesse pugnalata. L'orrore che provava era fisicamente doloroso. Ci furono molte esclamazioni di ammirazione. Tu hai la sangue sporco, vero Malfoy? Ho visto quel bell'articolo del profeta su di lei. Vero, disse Malfoy con voce fredda. La preside la odiava ai tempi della scuola. Probabilmente quando era arrivata era a pezzi, ci scommetto. No, disse Malfoy, la voce tagliente. Il signor oscuro voleva che fosse mantenuta intatta. Bastardo fortunato, mormorò qualcun altro. Deve essere divertente fissare la sua piccola faccia da saccente mentre glielo spingi dentro. Piange? Ho sempre immaginato che fosse una piagnona. Ho avuto così tante fantasie a scuola di immobilizzarla su una scrivania e incularla mentre piangeva. Si sentì accapponare la pelle e si tirò il mantello intorno strettamente. Non ci ho mai prestato attenzione, rispose Malfoy in tono annoiato. Quello che il signor oscuro comanda lo eseguo. Non c'è molto in lei che stimoli il mio interesse. Diverse voci brontolarono qualcosa su Malfoy, ma la conversazione andò avanti. Hermione drizzò le orecchie. Stavano discutendo della morte dell'Umbridge. Si lamentavano delle pattuglie nella foresta proibita e di quanto fossero fastidiosi i centauri. Sembrava che nessuno di loro sapesse nulla degli Horcrux. Era deludente, se non sorprendente. Continuò ad ascoltare. Malfoy stava per essere mandato in Romania. Quella sì che era una notizia. C'erano delle esecuzioni in programma lì e Voldemort voleva che fossero fatte con una cerimonia. Una dimostrazione di forza nel caso in cui qualcuno degli altri paesi europei avesse interpretato il tentato assassinio di O'Toole come un segno di debolezza. Lyrieve in persona avrebbe provveduto. Hermione si chiese se quella fosse la ragione per cui Voldemort aveva smesso di torturare Malfoy. Doveva essere in condizioni ottimali per mostrare il suo talento per l'omicidio in Romania. Ci fu un borbottio di gelosia per l'incarico di Malfoy. Hermione arricciò il labbro. Che razza di creature disgustose si ingelosivano perché qualcun altro era incaricato di uccidere? Qualcuno chiese in tono sbalordito. Ha intenzione di lanciare una vada a tutti? Questa sarebbe la tradizione, disse Malfoy, indugiando così apertamente che Hermione poté praticamente vedere il roteare degli occhi che sicuramente lo accompagnava. Non era sicura di cosa fosse più snervante, la disinvoltura di Malfoy o l'entusiasmo degli altri mangiamorte. La conversazione continuò, senza offrirle più nulla di utile. Poi ci fu un rumore di sedie che si spostavano e di persone in piedi, e Astoria blaterò qualcosa sui fiori della serra. Si allontanò attraverso le siepi per tornare verso l'altra entrata del Manor. Non voleva farsi trovare se uno dei mangiamorte avesse deciso di andare ad esplorare le siepi. Era quasi arrivata, quando improvvisamente... Immobilus. La maledizione la colpì al lato della testa. Si bloccò sul posto mentre Graham Montague attraversava le porte francesi del Manor. Chi immaginava che sgattaiolare via per pisciare mi avrebbe reso così fortunato? Sembrò meravigliarsi mentre si avvicinava a lei. Con tutte le protezioni che Malfoy ha aggiunto alla tua ala, temevo di non raggiungerti più. Ti ha già messo incinta? lanciò un incantesimo di rilevazione della gravidanza su di lei e sorrise quando risultò negativo. Non avrei mai pensato che far ospitare ad Astoria una festa dell'equinozio sarebbe stata la cosa che avrebbe finalmente funzionato, disse lui con una risatina. Le stava studiando il viso. L'espressione era trionfante come lo era stata a Capodanno. Le slacciò il mantello e glielo spinse via dalle spalle. Cazzo, l'ultima volta non le avevi queste. I suoi seni erano ancora un po' ingranditi dalla pozione di fertilità. Le afferrò il seno sinistro e lo strinse forte mentre si avvicinava, così che i loro corpi fossero quasi premuti l'uno contro l'altro. Infilò il naso nei suoi capelli, inspirando. Aveva un odore acre di vino. Era ubriaco. «Avresti dovuto essere mia, sai», disse, facendo un leggero passo indietro per guardarla di nuovo. «Sono stato io a catturarti quando hai attaccato il Sussex, quando ti ho visto in piedi sotto un cielo pieno di dissennatori in fiamme. Volevo scoparti proprio lì in quel campo». La presa sul suo seno si rafforzò mentre parlava, le dita che scavavano nella carne. Se Hermione avesse potuto muoversi, avrebbe rantolato dal dolore. «È così che mi sono guadagnato il marchio, sai, catturandoti. Il mio eccezionale servizio al Signore Oscuro. Quando ti ho visto nel Sussex, ti ho riconosciuto dalla grotta. Ricordi che ti ho detto che avrei chiesto di averti? Sono stato io a ricordare al Signore Oscuro di te per il programma di riproduzione. Ha detto che saresti stata mia, ma poi ha cambiato idea e ti ha dato a Malfoy». Montague sibilò e le girò il seno con forza nella mano. «Quel Malfoy del cazzo si prende tutto, ma ti devo così tanto dolore per avermi pugnalato con quei coltelli avvelenati che non lascerò che si metta sulla mia strada. Ho fantasticato su questo per così tanto tempo, ho persino comprato un pensatoio, solo per poterti guardare mentre ti inginocchi davanti a me e mi sbottoni i pantaloni tutte le volte che voglio». Avrebbe tremato se avesse potuto muoversi. Non sapeva di cosa stesse parlando Montague, ma riconobbe nel suo tono il suono di una vendetta crudele e ossessiva. Lui le sorrise e le appoggiò la punta della bacchetta sulla fronte. «Non vogliamo che Malfoy venga a interrompere il nostro divertimento, vero? Confundus». La mente di Hermione si annebbiò mentre l'Immobilus veniva rimosso e lei crollava tra le sue braccia, in attesa.